L'uomo che non ubbidirà alla saggezza degli altri, né rischierà per se stesso di avventurarsi alla sua conquista, ha la fine segnata. La società in cui i semplici ubbidiscono ai pochi profeti veggenti è una società che può vivere. Una società in cui tutti fossero profeti veggenti avrebbe una vita molto più piena e completa. Ma una società in cui la massa è ancora composta di semplici e non si dà più retta ai profeti, può arrivare solo ad essere superficiale, meschina, abietta e alla fine a estinguersi. Dobbiamo andare avanti o andare indietro? Restare fermi e morire. C.S. Lewis, studio preliminare sui miracoli meno. Gesù ha fatto delle affermazioni tanto uniche da essere famose in tutto il mondo. Anche una persona digiuna della parola di Dio sa che egli ha comandato di porgere l'altra guancia a chi riceve uno schiaffo. Vi è un'altra affermazione che viene citata a proposito e a sproposito sia nel mondo che nell'ambiente cristiano. Nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Marco 6:4. Questa affermazione, che in seguito è finita per diventare un detto, deve essere intesa correttamente, altrimenti possiamo fare dire a Gesù quello che non ha asserito. Soprattutto, come considereremo, tale affermazione tocca da vicino ogni cristiano. La prima domanda che viene da porsi è: chi è o chi era un profeta? Il profeta era colui che era investito di una autorità da Dio per comunicare agli uomini la sua volontà. 2 Pietro 2:21. Nell'Antico Testamento sono citati decine e decine di uomini che avevano questo ministero. Nonostante che questi uomini parlassero da parte di Dio, come mai erano disprezzati nella propria patria, fra i parenti e in casa propria? Non è un controsenso che i profeti venissero trattati in questo modo nonostante o proprio per questo parlassero da parte di Dio? Ecco le ragioni che ho trovato per rispondere a questi interrogativi. I profeti venivano respinti, uccisi, lapidati, scherniti perché? 2. Il loro messaggio era fuori dalla realtà presente. 3. Apparivano contraddittori. 4. I loro discorsi apparivano insensati. 5. Affermavano sempre la verità. 6. Non erano approvati dalla maggioranza. Prendiamo in esame ogni aspetto. Anche se sembra assurdo. Proprio perché era conosciuto, il profeta non poteva essere creduto dalla maggioranza. Questo per vari motivi. Prima di tutto perché nell'uomo vi è una inclinazione ad essere attratto da ciò che è superlativo. Questo spiega perché i personaggi televisivi, i supereroi, persone dello spettacolo particolarmente dotate, vengono osannate, idolatrate, imitate. Perciò, dato che un profeta, prima di essere un profeta, era un uomo spesso anche eclettico, la sua personalità non poteva sedurre. E un uomo, anche se è un profeta, ha i suoi limiti, commette i suoi errori che possono penalizzare il suo messaggio. Davide era un profeta, ma dopo aver commesso un adulterio, tramato astutamente un omicidio per poi commetterlo, da molti dei suoi contemporanei non era riconosciuto come un uomo che parlava da parte di Dio. Inoltre, una conoscenza parziale dell'uomo impedisce di capire e ricevere il messaggio del profeta. Gesù fu respinto come profeta perché i suoi concittadini sapevano che era nato da Maria subito dopo il suo matrimonio con Giuseppe ed era figlio di un falegname, come afferma Matteo 13, 53-50. Non si sa nulla se Gesù avesse studiato oppure. No, ma non mi stupisco se i suoi concittadini supponevano che non avesse studiato, che suo padre, essendo falegname, non avesse avuto entrate per farlo diventare un rabbi, uno studioso delle scritture. A peggiorare la situazione era il fatto che aveva fratelli e sorelle, per cui cosa aveva lui di particolare che non avessero i suoi fratelli e sorelle? Come poteva un figlio di un falegname essere il figlio di Dio? Se lui era divino, che cosa erano i suoi fratelli e sorelle? Oggi è facile credere a Gesù come profeta. Ma se egli fosse tra di noi, credo che faremmo fatica ad accettarlo come un uomo che parli da parte di Dio o addirittura che sia Dio stesso. Affermo ciò. Perché ho presente come gli uomini onorino così facilmente i morti che hanno disprezzato quando erano in vita. Sotto questo aspetto comprendiamo quanta sia stata grande la fede di Giovanni il Battista. Gesù era suo cugino, avevano giocato assieme, lo conosceva come un uomo giusto, ma per fede lo ha dichiarato figlio di Dio. Il profeta, dunque, è generalmente uno che vive in mezzo a noi. 2. Il loro messaggio era spesso fuori dalla realtà presente. Noi uomini a stento accettiamo il diverso, quanto più ci è difficile credere e accettare un discorso al di fuori della realtà presente. Spesso i profeti profetizzavano il bene quando tutto andava male. Profetizzavano cose negative quando tutto andava bene. Profetizzavano distruzione e rovina su Babilonia quando era nel suo massimo splendore. Profetizzavano benessere e prosperità quando Gerusalemme era ormai in rovina. Una delle ragioni perché i discepoli di Cristo non riuscivano a capire il messaggio del loro maestro era che egli parlava da profeta, quando egli insegnava e riusciva vincitore in ogni conversazione. Parlava di sofferenza, di morte e di resurrezione. Durante la festa ebraica più bella, la festa in ricordo della liberazione del loro popolo dall'Egitto, Gesù parla di morte, della sua resurrezione. Non a caso Luca commenta per un'altra circostanza, ma essi non compresero nulla di tutto ciò. Questo parlare era per loro oscuro e non capivano le cose che erano state loro dette. Luca 18 e 34. Il profeta, con il suo messaggio e con la sua vita, è proiettato nel futuro, lasciando inevitabilmente il vuoto intorno a sé. Ho visto un film di fantascienza dove un uomo era tornato dal futuro e diceva ad un suo contemporaneo che un giorno il presidente degli Stati Uniti sarebbe stato Ronald Reagan. Cosa rispose quello? Un mandriano e attore presidente d'America? Impossibile? Ma è impossibile invece valutare il futuro con la realtà del presente. Il profeta dunque è uno che ha un messaggio proiettato nel futuro. 3. Il loro messaggio e la loro condotta spesso apparivano contraddittori. Forse non tutti hanno compreso i capitoli 32 e 33 di Geremia. La città di Gerusalemme era assediata dai Caldei. Geremia parla da parte di Dio ed invita il popolo di Israele a lasciare Gerusalemme per arrendersi ai Caldei, perché Dio aveva deciso che la città sarebbe stata presa e arsa al suolo. Ad un tratto Geremia, per ordine di Dio, compra un campo come se la città vivesse nella calma più assoluta. Lui ubbidisce perché era un ordine divino, ma si rese conto della sua incoerenza. Predicava la resa, e lui comprava del terreno come se Gerusalemme non sarebbe mai stata vinta. Geremia comprende il suo atto, e tutto perplesso si rivolge a Dio. Ecco, le opere d'assedio giungono fino alla città per prenderla. La città, vinta dalla spada, dalla fame e dalla peste, è data in mano dei Caldei, che combattono contro di lei. Quello che tu hai detto è avvenuto, ed ecco, tu lo vedi. Eppure, Signore Dio, tu mi hai detto, comprati con denaro il campo e chiama dei testimoni. Ma la città è data in mano dei Caldei. 32:24-25. Ma le perplessità di Geremia verranno esaudite da Dio con nuove rivelazioni. Gerusalemme sarebbe stata di nuovo abitata. Più di una volta Geremia ha invitato il popolo ad arrendersi ed ad andare in Babilonia, però termina il suo libro dicendo di fuggire da Babilonia e di andarsene. Fuggite di mezzo a Babilonia, uscite dal paese dei Caldei, siate come dei capri davanti al gregge. Geremia 58. Come doveva comportarsi un contemporaneo di Geremia? Doveva andare a Babilonia o andarsene? Quanto è difficile comprendere le parole di un profeta? Il profeta dunque spesso può apparire contraddittorio. 4. A volte pronunciavano discorsi incomprensibili e senza senso. Il linguaggio dei profeti non era certamente chiaro, anzi, a volte dicevano cose senza senso. Un esempio è stato Gesù quando davanti a Tempio disse: distruggete questo Tempio, e in 3 giorni lo farò risorgere. Giovanni 2:19. Vorrei che fossimo stati noi presenti per vedere le facce che avremmo fatte. Questa affermazione era talmente provocatoria che i suoi nemici la presero come capo di accusa quando fu condannato, anche se volutamente la distorsero. Matteo 26:61. Pensiamo noi di essere migliori dei contemporanei di Gesù? Non sono così ingenuo da dimenticare che vivere fuori dal buon senso può essere fatale, ma il volere di Dio, più che essere contro il buon senso, va oltre il buon senso. Ciò che facciamo fatica ad accettare il più delle volte non è tanto la parola insensata, ma il volere di Dio quando è ardito, quando ci sfida. Perdonare a volte può sembrare assurdo, ma rimettere le colpe altrui non è andare contro il buon senso, bensì andare oltre. Fare del bene a delle persone ingrate sembra insensato, ma la fede ha delle ragioni che la ragione non ha. Non essere maliziosi si può sembrare sciocchi, ma l'amore va oltre il buon senso. Non stabilire un rapporto amoroso con chi non è figlio di Dio può sembrare un non senso per chi del buon senso non ha. La volontà di Dio è assennata, l'uomo di Dio deve essere assennato, 1 Timoteo 3, 2, ma non dobbiamo fare del nostro discernimento il punto di appoggio per compiere la volontà di Dio. Se Noè avesse usato la sua logica non avrebbe costruito l'arca. Se Abramo avesse usato il suo discernimento non avrebbe offerto suo figlio Isacco. Se Gedeone fosse stato saggio non avrebbe combattuto migliaia di nemici con 300 uomini. Se Filippo avesse usato il suo buon senso non sarebbe andato in una via deserta. Se Pietro avesse avuto del criterio non avrebbe chiesto a Gesù di andare a lui con la tempesta. La volontà di Dio, perché dicevano sempre e comunque la verità. Anche da una lettura superficiale della scrittura si comprende che Dio suscitava dei profeti per riprendere il suo popolo, per cui è evidente che il loro ministero era uno dei più ingrati. La loro abitudine di dire la verità a qualsiasi prezzo veniva pagata cara e li mettevano in brutta luce. Un esempio lo vediamo in 1 Re, capitolo 22, con il profeta Micaia. Il re di Israele, Acab, e il re di Giuda, Giosafat, volevano conoscere la volontà di Dio. Consultarono 400 profeti, i quali predicevano che avrebbero vinto la guerra. Fu chiesto il parere a Micaia, un profeta che il malvagio re Acab odiava perché non prediceva mai nulla di buono, ma soltanto del male. Versetto 8. Micaia, forse vinto dalla paura o dal desiderio di conformarsi agli altri profeti, disse una bugia. Acab, che conosceva bene l'uomo di Dio, lo invitò a dire la verità. Il profeta disse al re Acab che sarebbe morto, e proprio perché disse la verità, fu messo in prigione. Si era avverato ciò che aveva detto il profeta Amos. Essi odiano chi li riprende alla porta e hanno in orrore chi parla con integrità. Amos 5:10 e il proverbio «Non riprendere lo schernitore, perché ti odierà» Proverbi 9:8. Le cose non sono migliorate. In questi 2000 anni dall'incarnazione della verità, coloro che hanno avuto il coraggio e la perseveranza di dire le cose come sono, spesso hanno pagato con la loro vita. Un esempio è stato Girolamo Savonarola che condannava la lussuria del papato e per questo fu bruciato. La verità è sempre stata rigettata dalla maggioranza perché, come disse Gesù ai discepoli per consolarli, il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui, che le sue opere sono malvagie. Giovanni 7:7. Il profeta non può quindi esimersi di avere un trattamento migliore. Il profeta dunque afferma sempre la verità a discapito della propria reputazione e vita. 6. Non erano approvati dalla maggioranza. L'opinione della maggioranza ha un fascino incredibile su di noi. È molto più facile seguire la corrente che andare controcorrente. I falsi profeti cercano l'approvazione delle folle, la loro vita è di trionfo in trionfo e per tutto hanno un rimedio facile. Essi predicano uno psicovangelo per folle di uomini senza volto. Il loro è un vangelo senza sofferenza, una resurrezione senza morte, una testimonianza senza persecuzione, una parola senza silenzio, un grido di gioia senza prima, un'angoscia. I profeti di Dio non conoscono applausi e approvazioni di popolo. Vivono tra le gente senza essere famosi. E se sono famosi è perché sono originali. Ma la loro originalità non attira, non è seducente, non ha il favore della massa. Chi vorrebbe anche seguirli non lo fa perché si espone ad essere scartato dalla società. e poiché la conformità dell'assenso è l'oppio delle folle, queste persone sono schiave della comune opinione. Così la solitudine dei profeti diventa pressoché totale, e come un circolo vizioso il popolo rifiuta il diverso. Una caratteristica del profeta è dunque la solitudine. Dopo queste riflessioni, che un profeta sia disprezzato nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua, può anche essere una realtà comprensibile. Ma, viene da chiedersi, vi sono profeti anche oggi? Vi sono persone che sono fra di noi che possono avere comportamenti apparentemente contraddittori, che parlano in un modo insolito e che dicono sempre la verità? Direi di sì. Solo che il metodo normale di Dio è cambiato. Di norma Dio non usa qualcuno che viene da lontano, che vive isolato da tutti, un essere atipico, ma si serve dei credenti della Chiesa. Quando l'Apostolo Paolo istruiva i credenti di Corinto, capitolo 14 della sua prima lettera, invitava ogni credente a ricercare il dono di profezia. Desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Versetto 1. In che cosa consisteva questo dono? Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Versetto 3. Secondo questa definizione, la profezia è un discorso ispirato, ma questo dono non contempla il ministero di riprensione. Chi poteva profetizzare? Infatti tutti potete profetare a uno perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Versetto 31. Poi ogni credente può esercitare il ministero di profeta. Chi sono questi tutti? Ogni uomo che prega o profetizza. Ogni donna che prega o profetizza. 1 Corinzi 11, 4 a 5. Paolo ripete due volte che sia gli uomini che le donne possono profetizzare. Come profetizzare? Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al suo capo, perché è come se fosse rasa. 1 Corinzi 11, 4 a 5. Vi sono regole nel profetare nella comunità. Quando profetizzare? Che dunque, fratelli, quando vi riunite? Versetto 26. La profezia si esprime nell'ambito delle riunioni. Cosa profetare? Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Versetto 26. Ciò che proviene da Dio. Quanti profeti possono parlare? Anche i profeti parlino in due o tre. Versetto 29. Non vi è dunque sempre un solo profeta che parla. Qual è la loro autorità? Anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente taccia. Infatti tutti potete profetare a uno perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, versetto 29. Chi parla da parte di Dio deve essere disposto ad essere esaminato. Qual è lo scopo di chi parla? Si faccia ogni cosa per l'edificazione, versetto 26. Ogni altra ragione annulla il suo messaggio. Qual è il risultato finale di tale comportamento? Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati, e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente fra voi. Versetto 24. Il ravvedimento dei non credenti. Anche oggi Dio può parlare al credente mediante profeti isolati e atipici. Il metodo regolare per rivelare la sua volontà ai suoi figli sono i profeti che vivono in seno alla Chiesa. Dobbiamo credere a questo strumento di Dio, soprattutto nei momenti difficili della nostra vita, perché la Chiesa è un luogo di protezione, di edificazione e di crescita. Cerchiamo noi di udire la voce di Dio nella Chiesa. Abbiamo uno spirito di ascolto quando ci raduniamo. Se il profeta è disprezzato nella sua patria E in casa sua chiediamo a Dio di esercitare quella umiltà di saper ascoltare la sua voce, tramite persone di cui conosciamo i difetti e i peccati, perché Dio, come per i profeti che ci hanno preceduto, è più grande dei nostri limiti. Se Dio si serve del creato, degli animali, dei pagani, per rivelare i suoi pensieri, quanto maggiormente può servirsi della bocca di un suo figlio per comunicare la sua volontà? Un orecchio che ascolta e sa ascoltare è un bene inestimabile. Non solo. Ricerchiamo noi il dono di profezia? Desideriamo avere un linguaggio ispirato per il bene della Chiesa? E, dando che si riceve. I parametri nel regno di Dio sono diversi. Queste riflessioni possono produrre due pericoli non indifferenti. Sentirci dei profeti incompresi, o pensare di aver parlato da parte di Dio anche quando non è vero. Per evitare questo errore teniamo presente tre verità. 1. Dio ha il diritto di usare chiunque per parlare agli uomini, perciò chi parla da parte di Dio non è necessariamente un profeta. Come Dio ha usato un'asina, così si è pure servito di re pagani e di religiosi increduli. Un episodio significativo lo troviamo in Giovanni, al capitolo 11. Caifa, che era sommo sacerdote al tempo di Gesù, disse davanti al Sinedrio: «Voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio. Che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». E Giovanni commenta a proposito: «Ora egli non disse questo di suo, ma, siccome era sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi». Caiafa non era un profeta, anche se aveva parlato da parte di Dio. Questo conferma che il profeta è colui che ha il ministerio, e non chi predice una profezia. Anche colui che è in grado di guidare un camion non è per questo un camionista. Così Dio può usare un fratello o una sorella per parlare a qualcuno, ma questo non fa di loro dei profeti. 2. Chi parla da parte di Dio non si offende se viene rifiutato. Abbiamo considerato che il profeta è un portavoce di Dio. Egli riferisce ciò che egli ha ricevuto da Lui. Colui che pensa di parlare da parte di Dio e poi si offende perché non viene ascoltato, sta esponendo delle sue opinioni. Nessuno di noi rimane offeso se non ascoltano le parole di un altro, ma si rimane offesi se non ascoltano le nostre parole. Geremia aveva parlato da parte di Dio e il popolo minacciò di ucciderlo, Geremia capitolo 26. Egli, con molta serenità, rispose che era nelle loro mani e potevano fare di lui quello che volevano. Però, aggiunse, che si era limitato a riferire ciò che Dio gli aveva detto, e che avrebbero sparso del sangue innocente se lo avessero ucciso. Nonostante non fosse stato ascoltato e in più minacciato, nessuna amarezza, nessun risentimento. La permalosità non esiste nel vero profeta. Dolore sì, ma non rancore. 3. Chi ha del buon senso può sembrare un profeta. Come ci sono delle leggi matematiche, per cui 2 più 2 fa 4, così nella vita ci sono comportamenti e modi di vivere che inevitabilmente portano a delle conclusioni. Se una persona viaggia sull'autostrada da Modena verso Firenze e vuole andare a Trento, io so che se continua in quella direzione prima o poi arriva a Roma. Se due giovani si lasciano andare in effusioni d'amore, io so che a lungo andare non rimarranno casti. Questo non è essere profeta, semplicemente buon senso. Anzi, come abbiamo considerato, il profeta non sempre segue la logica del 2 più 2 fa 4. Avevo avvertito un uomo sposato che se avesse continuato una certa relazione avrebbe finito con il commettere adulterio. Dopo pochi mesi mi disse che ero stato un profeta, ma io gli risposi che più di un profeta ero stato un matematico. Se le cose che hai previsto succedono, molto probabilmente sei solo una persona sensata. Queste riflessioni hanno lo scopo non tanto di farti investigare se tu sei un profeta oppure no, ma piuttosto di invitarti a riflettere se sai ascoltare la voce di Dio, la quale, oltre che arrivare nei modi più impensati e dalle persone più strane, normalmente si fa udire tramite i credenti della Chiesa, locale e universale. La Chiesa non è un accessorio, ma una istituzione di Dio e quindi un mezzo per la tua edificazione, consolazione e una voce per conoscere la volontà di Dio. Purtroppo molti credenti soffrono di problematiche senza via di uscita solo perché non hanno l'orecchio attento alla voce di Dio. Essi biasimano una comunità mancante, limitata, spiando i suoi difetti dal buco della serratura. I desideri di volere una Chiesa avvincente, impegnata, chiaroveggente, militante, li rendono sordi all'edificazione, all'esortazione e alla consolazione che ricevono ogni volta che si radunano con la Chiesa. In cielo si sentiranno ripetere le parole che Gesù rivolse a Gerusalemme. Quante volte ho voluto, ma tu non hai voluto. Se non ascolti la voce di Dio tramite i peccatori, che conosci e che appartengono alla Chiesa, se non dai retta ai profeti in casa, puoi arrivare solo ad essere superficiale, meschino, abietto e, alla fine, estinguerti. Ricerca l'atteggiamento dei profeti, parla, poiché il tuo servo ascolta. 1 Samuele 3:10. Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli, e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. 1 Corinzi 1:27-29. Novembre 2000, Ellero,